Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. La frequenza cardiaca potrebbe essere utilizzata come marker del tono dell'umore, quanto suggerisce una ricerca presentata al Congresso europeo di neuropsicofarmacologia appena concluso. In linea con noi il professor Giulio Stefanini, cardiologo presso l'unità operativa complessa di cardiologia clinica e interventistica e docente all'Humanitas University. Buongiorno, sì, è vero, questo studio molto interessante appena presentato da questo gruppo tedesco di fatto ha valutato 32 soggetti, 16 dei quali con una depressione maggiore e 16 invece assolutamente sani. E quello che hanno fatto questi investigatori è stato di misurare la frequenza cardiaca di queste persone per 4 giorni e 3 notti, andando a rilevare che i pazienti con una depressione maggiore di fatto hanno una frequenza cardiaca tendenzialmente più alta e anche una minore variazione della frequenza durante la giornata, portando una prima evidenza abbastanza solida che effettivamente la depressione si associ a una frequenza cardiaca più alta, quindi una frequenza cardiaca più alta può essere un marker di uno stato depressivo. Sicuramente è uno studio che andrà confermato da studi più grandi, essendo uno studio abbastanza piccolo, di sole 32 persone, e andrà pure valutato se c'è un rapporto causa-effetto, ma è sicuramente molto interessante l'associazione, il fatto che i pazienti con depressione hanno una frequenza cardiaca tendenzialmente più alta. Professor Stefanini, quindi la frequenza cardiaca è importante anche per la nostra psiche. Quale indicazione possiamo avere da questo studio per portarlo nella pratica quotidiana? La frequenza cardiaca sì, è importante per la nostra psiche, per il nostro umore e va detto che è importante anche per il nostro cuore. E ad esempio fare un'attività fisica regolare, per esempio 3 volte a settimana, 45 minuti di attività aerobica, migliora lo stato del nostro cuore portando a una riduzione della frequenza cardiaca e migliora anche il nostro umore perché porta un rilascio di endorfine che migliora il nostro umore. Grazie professor Stefanini per essere stato con noi, le auguro una buona giornata. Buona giornata a voi. E io vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto e vi segnalo che sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute, come ogni giorno, trovate una nostra video intervista. Oggi una lezione antistress, come gestire lo stress con delle brevissime meditazioni, insieme a noi la dottoressa Beatrice Toro, psicologa e psicoterapeuta. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.